La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. L'articolo 6 riguarda le minoranze linguistiche tutelate dalla Repubblica. I costituenti sapevano benissimo che l'Italia è uno Stato unitario, ma che tuttavia è uno Stato basato sulle differenze. Differenze storiche, culturali, linguistiche, etniche. Scelgono, ancora per principi fondamentali, di segnalare l'importanza della tutela delle minoranze linguistiche. Scelgono, anche per ragioni storiche, la parola linguistica come minoranza più di etnico, culturale, ma proprio per l'idea che esistono nello Stato delle comunità con una cultura, una lingua diverse che vanno appositamente tutelate. Il pensiero andava immediatamente all'Alto Adige, alla Valle d'Aosta, alla zona friulana della Venezia Giulia, ma senza dimenticare che abbiamo tante altre minoranze, catalane, occitane, albanesi, e anche qui il Costituente è aperto, le tutela con apposite norme, in quanto poi sarà la legge a graduare queste tutele anche rispetto all'importanza della minoranza nel panorama culturale e linguistico delle singole aree geografiche.